e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati, Nicoletta, buongiorno. Iniziamo quest'ultima puntata della settimana dando un po' i numeri. Io me li segno. Gli ascoltatori diranno, ma voi li date tutti i giorni, quindi sì, di vario tipo, tra borsa e altri indicatori economici. Oggi parliamo di prestiti, quelli che vengono sottoscritti e richiesti dalle famiglie italiane e, come avrete sentito forse in questi giorni, sono arrivati dalla Banca d'Italia dei dati interessanti. A novembre dello scorso anno i prestiti hanno fatto segnare un rialzo dello 0,6% su base annua. Perché vogliamo enfatizzare questo dato? Perché si tratta di una crescita per la prima volta da metà del 2012. I prestiti alle famiglie sono saliti dello 0,8% e quelli alle imprese dello 0,2%. Anche qui un primo rialzo dal 2012. Sono cifre dietro le quali si nascondono naturalmente tante storie. Noi su quelle oggi ci focalizziamo in questa prima parte di Cuore e Denari. Leggeremo insieme questi dati e chiediamo anche a voi di raccontarci se avete chiesto un prestito recentemente o se avete intenzione di farlo e con che finalità. 800 24 00 24, naturalmente componete subito il numero verde per intervenire a Cuore e Denari. Certo, sappiamo che in alcuni casi, quando intervengono circostanze negative, se non si ragiona bene su un prestito, questo rischia di trasformarsi in un boomerang, in un indebitamento. Speriamo che siano sempre meno i casi di questo tipo, ma noi ci faremo spiegare stamattina anche come si fa a comporre una crisi da debito qualora ci dovessimo ingabbiare in una circostanza di questo tipo. Deborah, sai che anch'io ti parlo di un debito? Davvero? Sì, di un altro genere di debito che tendiamo a non considerare, ma che ci può costare caro. Parlo del debito di sonno. Tu come dormi? Lo sai che non dormo tantissimo, però mi sveglio frequentemente, dai. Esatto. Sì, però insomma non ne risento durante la giornata, sono ormai abituata a questo ritmo. Allora, dei benefici del sonno su umore e salute noi abbiamo parlato tante volte: dormire bene, soprattutto il giusto numero di ore indispensabile per consolidare la memoria, stabilizzare umore e metabolismo, liberarsi delle sostanze di scarto accumulate nel cervello. Il sonno fa proprio la funzione di spazzino e anche avere un buon rendimento lavorativo e scolastico. Eppure ci sono tante ragioni che ci fanno perdere il sonno: i ritmi di vita accelerati, lo stress, le preoccupazioni, gli orari di lavoro scolastici e lavorativi magari troppo mattutini o prolungati la sera, il consumo di bevande eccitanti, l'uso o meglio l'abuso dei dispositivi tecnologici da cui ormai non ci separiamo mai. Risultato: andiamo in debito di sonno, ma a volte non ce ne rendiamo conto, oppure, come ha detto Deborah, facciamo di necessità virtù, no? Ci rassegniamo, ci attrezziamo, ma a lungo andare la salute, il nostro umore, le nostre relazioni ne risentono, così come anche la nostra efficienza, la nostra attenzione e la nostra prontezza di riflessi. Allora oggi cercheremo di capire che cosa disturba il nostro sonno, lo frammenta, interferisce sulla sua qualità, se non dormite a sufficienza, se vi viene sonno durante la giornata, se avete un disturbo del sonno che vi impedisce di dormire o non vi fa dormire bene. Bene, chiamateci perché il nostro esperto analizzerà il vostro caso e vi aiuterà a fare pace con Morfeo. Aggiungo un ultimo dettaglio proprio per rimanere nell'attualità: se guidate, quindi dovete rinnovare la patente, chiamateci perché ci sono novità che riguardano proprio la qualità del sonno e il rinnovo della patente. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Effettivamente abbiamo già commentato a più riprese per tutto il 2015 il trend molto positivo che registra il settore dei mutui ipotecari, che le banche hanno ripreso a erogare a pieno ritmo dopo anni di grande rigidità. Due giorni fa Banca Italia ha riportato invece le cifre di un'altra tendenza: è tornato positivo l'andamento complessivo dei prestiti delle banche al settore privato in Italia, quindi non solo mutui ma anche tutto il tema del credito al consumo, dei prestiti personali. Banca d'Italia spiega che a novembre dello scorso anno i prestiti hanno fatto segnare un rialzo dello 0,6% su base annua per la prima volta dal 2012. È un dato di sistema importante che oggi analizzeremo insieme ai nostri ospiti, che comprende non solo mutui, come vi dicevo, ma anche tutto il mondo dei prestiti personali e credito al consumo. Allora, a che tassi ci si indebita oggi? Quali prestiti, escludendo i mutui, sono particolarmente richiesti dagli italiani? Fino a che limite ci si deve indebitare per evitare di ritrovarsi intrappolati dalle rate? Ce lo spiegherà Roberto Aned, direttore marketing di Prestiti Online. Ben ritrovato. Buongiorno e buon anno. E buon anno, esattamente. Infatti ancora non ci eravamo fatti gli auguri, così come facciamo gli auguri anche a Donata Monti, presidente di Proseguo, associazione di professionisti che opera contro l'esclusione socio-economica dei soggetti sovraindebitati. Presidente Monti, Presidente Monti, magari non è carino, dottoressa Monti, buongiorno. Donata Monti va benissimo, Donata. Buongiorno a tutti, auguri. Anche se non, lei, se non l'abbiamo mai ospitata, è un'amica di Cuore e Denari, e io volevo anche sottolineare ai nostri ascoltatori, ci fa molto piacere poter dire ai nostri amici che ci seguono da casa che da pochissimi giorni Donata Monti è entrata a far parte della squadra che supporta il presidente della Good Bank, Roberto Nicastro, con il compito di favorire il rapporto con le associazioni dei consumatori. Per cui no, a noi fa molto piacere dirlo, lo dico subito, perché siccome Donata Monti la conosco da molto tempo, una persona per bene, sono contenta che Nicastro si sia portato Donata Monti nella sua squadra. Quindi io confido ancora di più nel lavoro che farà Nicastro a favore di tutte quelle persone che sono rimaste vittime del famoso decreto salvabanche. E Donata Monti ci ha anche promesso che non appena avrà delle notizie interessanti per noi ce le anticiperà. Rispetto a tutti i giornali e tutti gli altri. Detto questo, 800 24 00 24 è il numero verde per gli ascoltatori che naturalmente, se vogliono, potranno raccontarci, potrete raccontarci se siete in procinto di chiedere un prestito, se conoscete il mondo del credito al consumo, vi siete mai trovati in una situazione ingestibile con il rimborso delle rate, situazione che capita frequentemente con i mutui, è successo tantissimo negli ultimi anni, come avete affrontato la situazione nel caso in cui invece anche gli altri prestiti non siete riusciti a rimborsarli. Allora Nedda, parto con lei, cosa ci racconta l'osservatorio di prestiti online? Confermate i dati della Banca d'Italia, si rivede il segno più anche per il credito al consumo dopo tanti anni di discesa, in che misura? Sì, in realtà il dato del 2015 relativo al credito al consumo, sia da parte nostra, che insomma, siamo un osservatorio abbastanza diffuso, ma non, magari non direttamente rappresentativo di tutta la realtà nazionale, ma anche andando a guardare i dati nazionali, come ad esempio quelli di Assofin, parlano di un settore del credito al consumo in decisa ripresa, perché nel caso delle erogazioni proprio legate al settore parliamo di oltre il 10% di aumento rispetto al 2014, quindi sicuramente un settore in ripresa, figlio anche un po' della rinnovata fiducia sui mercati, oddio, sui mercati per come stanno in questi giorni non no, tanto. No, ecco, direi che questa relazione mercati, non la possiamo stabilire. Sui mercati, mercati creditizi sì, esatto, nel senso che i tassi ai minimi, la grande liquidità a disposizione degli operatori ha favorito questo ritorno dei finanziamenti sia dal lato dei mutui, come abbiamo visto più volte anche l'anno scorso, ma anche del credito al consumo un po' per tutte le diverse certo. sue tipologie e finalità, quindi il prestito personale, il credito finalizzato, le carte di credito, anche la cessione del quinto. Allora, quindi diciamo che possiamo un po' analizzare il fenomeno come sempre da diversi punti di vista. Per la situazione, come dire, creditizia generale, parliamo di una buona notizia perché il mercato del credito si sta riprendendo e anche questo serve per stimolare l'economia. Naturalmente speriamo che non si riprenda a tassi eccessivi come è capitato in passato, soprattutto per evitare situazioni di difficoltà delle famiglie quando ci si indebita, perché si è sempre in una condizione economica un po' precaria. Beh, certo. Non sempre, perché magari si vuole fare un acquisto e non lo si vuole pagare tutto in una volta, e quindi dilazionare un po' nel tempo con una modalità di fare lucida. Il debito è sempre un po' associato, non una condizione di difficoltà, Nedda. Sì, lo viviamo sempre come d'altronde è un problema, un qualcosa in più da gestire, un peso in più mese dopo mese sul bilancio familiare. C'è da dire che negli ultimi anni, grazie insomma alla maggiore competitività degli operatori, anche dal ritorno a dei tassi sicuramente più accessibili, come quelli del credito al consumo degli ultimi anni, si è, come dire, favorito anche l'utilizzo del credito al consumo per agevolare determinate spese in modo che pesino in maniera meno importante e tutte assieme, diciamo, sul bilancio familiare, perché alla fine il grosso delle richieste e delle erogazioni sono fatte per finalità legate alle spese di casa, come la ristrutturazione, l'arredamento, oppure l'auto o un motoveicolo. Quindi spese che non si fanno spesso, ma che a un certo punto la famiglia deve affrontare. E sono tutte spese abbastanza importanti. Quindi certo, al di là se di... si rompe l'auto in casa improvvisamente e non è stata preventivata questa spesa, ti mette un filino in ginocchio. Sì, e quindi a volte dover tirare fuori 10, 20 o anche 30 mila euro tutti in una volta per una famiglia può essere magari difficile. Magari la famiglia ce li ha anche, ma le ha accantonati per un risparmio, per un'emergenza di altro tipo, per cui preferisce effettivamente ripagare questo nuovo acquisto a rate. Peraltro c'è un altro comparatore, un vostro competitor un po' più piccolino della vostra società, che però ieri ha diramato un'indagine che hanno fatto secondo le richieste di prestito appunto che arrivano a loro, e hanno detto che molti italiani chiedono finanziamenti per pagare le spese sanitarie. Forse in passato con Nicoletta avevamo fatto anche una trasmissione su questo tipo. Prestiti per che cosa? Per ripagare gli impianti di ortodonzia, per sé o per i figli, per gestire terapie di lunga durata, ma anche per trattamenti di bellezza e per operazioni di chirurgia estetica. E pare che siano particolarmente i pensionati a fare una richiesta di questo tipo, ad indebitarsi per sostenere la spesa medica. Il vostro osservatorio ci racconta altrettanto, Anedda? Sì, più o meno sì, nel senso che spese di questo tipo, tra le spese per estetica o benessere cosiddette, oppure più per spese mediche vere e proprie, siamo intorno al 2% delle erogazioni, quindi da un lato chiaramente una quota piccola perché il grosso va su spese di altro tipo, però è anche vero che quando una famiglia, anche magari un pensionato, deve affrontare una spesa di un certo tipo, quelle dentistiche non sono mai spese da poco, ricorrere anche qui a un finanziamento può essere utile, perché magari si parla di importi più piccoli di 3, 4, 5 mila euro. Però comunque possono essere credo importanti. Credo che forse qualche dentista anche, come dire, si proponga come intermediario per i propri clienti, appunto, per alleviare un po' questa spesa che si è fatta tutta in un'unica soluzione. A proposito di dentisti, quando diciamo di che la prevenzione deve essere giovane, anzi inizia ancora prima di nascere, nella pancia della mamma, ancora prima, per vuol dire anche un risparmio, esattamente, oltre un guadagno in salute. Quale denari in effetti è la teoria per raccomandarvi tutto questo. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per intervenire questa mattina sul tema di oggi, il prestito. Escluderei il tema mutui quest'oggi, parlerei di più di prestiti personali. Per quale finalità avete dovuto richiedere un prestito di recente? Si è trattato di un prestito finalizzato personale, perché poi abbiamo anche una differenza fra questi due mondi. Che importo avete chiesto? Che tassi vi sono stati proposti? Donata Monti, il suo è da anni un grande impegno con il mondo del consumerismo. Negli ultimi anni ha avuto un impegno ancora più forte sul fronte dell'indebitamento delle famiglie. Ci siamo detti tante volte che in Italia, per fortuna, non abbiamo conosciuto, anche negli anni in cui il trend del credito al consumo era molto alto, non abbiamo conosciuto le patologie del sistema anglosassone, però qualche deriva problematica l'hanno vissuta anche tante famiglie italiane. Ce lo offre uno spaccato dal vostro punto di vista sugli italiani e le rate oggi? Qual è la visione della vostra associazione, che ricordo si chiama Proseguo, e poi racconterò ai nostri ascoltatori che cosa fate? Sì, noi nell'ultimo workshop che abbiamo fatto ad ottobre di quest'anno, guardando i dati 2014, lavorando sui dati 2014, abbiamo visto che insomma le famiglie sovraindebitate sono il 5,7% del totale, quindi abbiamo calcolato circa 400.000 famiglie che hanno diciamo questo problema. I dati sono sempre, come dire, confrontati rispetto agli altri, sembrerebbero sempre risibili. In effetti, voglio dire, dietro queste situazioni ci stanno poi N persone, perché noi trattiamo questi dati, li analizziamo sulla famiglia, non sul singolo. Quindi direi che va tenuto comunque conto, senza drammi, senza nulla, però era necessario avere uno strumento, noi lo dicevamo dal 96, che era necessario avere uno strumento che intervenisse per risolvere queste situazioni che poi vanno verso appunto la povertà, l'esclusione sociale. E così è stato, insomma. Ora vedremo nel prossimo anno, questo dato viene rilevato per ora solo da noi con i nostri sistemi, lo fa per noi il dottor Carlo Milani, che è un ricercatore, lavora al CER, e non abbiamo, diciamo, altri confronti. Noi insistiamo nel dire che questo è un dato che andrebbe rilevato istituzionalmente con tutta una serie di riferimenti per recepirlo, recensirlo, e quindi questo potrebbe poi dare dei suggerimenti per intervenire strutturalmente poi nelle cause. Che sono spesso cause oggettive, lo sono state la perdita di posto di lavoro, cioè la gente pre-crisi si era indebitata in modo, diciamo, non anomalo, in modo normale, non patologico, esatto, tranne alcuni casi ci sono sempre. Però se interviene la perdita repentina del posto di lavoro inaspettata, certo, allora ecco che la situazione da normale si fa patologica. Allora, dottoressa Monti, Roberta Anedda, dobbiamo andare in pausa, abbiamo il traffico adesso, però mi interesserebbe anche capire, quando voi parlate di famiglie sovraindebitate, che cosa intendete con questo concetto, nel senso qual è la condizione economica della famiglia? È chiaro che se si perde il posto di lavoro manca un reddito in entrata, certo, e tutto quello quello che c'è diventa debito, ma insomma se esistono proprio anche dei parametri oggettivi come li avete individuati e quantificati, anche magari per aiutare qualche persona che ci ascolta a fare un esame su se stesso, no? Per capire, ma guarda un po', sono in una situazione di questo tipo e magari non avevo avuto la percezione. A tra poco. Cuore e denari. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42. Ne do altri, ma questi sono più familiari ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Noi raccogliamo le vostre testimonianze al nostro numero verde e continuiamo a commentare i numeri sui prestiti alle famiglie italiane. Banca d'Italia rileva che le famiglie sono tornate a chiedere i mutui, ne abbiamo parlato tante volte, ma aggiungiamo anche la voce credito al consumo adesso a queste indagini. Abbiamo di nuovo il segno più su alcune voci, non sappiamo se sia proprio una buona notizia, una cattiva notizia, speriamo che sia un fenomeno sano quello che sta maturando di nuovo, ma intanto vi chiediamo voi perché cosa vi indebitereste oggi e per che cosa invece non ne vale la pena a vostro parere. E il numero verde ve l'ho ricordato, scriveteci se volete anche al 349-238-6666. Io leggo gli sms, invece Nicoletta monitora. Il 349-238-6666 monitori che, WhatsApp, sì, certo, sì, che serve anche per WhatsApp. Donata Monti, ritorno da lei, presidente dell'associazione Proseguo. Allora, qual è la fotografia della famiglia sovraindebitata? 1.400.000 secondo le vostre... No, scusi, devo chiedere scusa. Perché il dato è importante. 4 milioni di famiglie sovraindebitate, pari al 5-7% del totale. Chiedo scusa. Me lo ribadisce allora il dato corretto? 1,4 milioni. Sì, aveva detto così correttamente prima. Sì. Pari al 5,7% del totale. È il dato che ha dato prima? Sì. E non è, no, avevo detto 1,4 milioni. Sì, no, nel senso che è 1.400.000. Andiamo avanti, non importa Donata. 1,4 milioni significa 1.400.000 famiglie secondo come lo sono, sì. Prevalentemente abbiamo visto nuclei familiari con a capo un giovane appartenente al ceto medio, lavoratore dipendente, spesso al nord, le persone secondo me quando sono sovraindebitate non sanno magari darsi questo titolo, però dovrebbe rendersene conto, perché cerco di dirlo proprio con parole poverissime, cioè quando uno è in questa situazione non ce la fa più ad assolvere a tutti i suoi doveri, quindi magari la coperta diventa troppo corta, per cui oggi pago questa rata ma non pago la rata del mutuo, oppure pago la rata del mutuo ma non pago la luce, perché poi i soggetti, diciamo i creditori, sono molteplici, non sono soltanto banche o finanziarie, che ovviamente essendo coloro che prestano denaro sono quelli che quantitativamente sono più coinvolti come creditori, però ci sono altri soggetti, può essere appunto il proprietario di casa, le utilities, quindi telefono, luce, gas, possono essere spese appunto prestiti che ho fatto per problemi sanitari, per pagarmi anche la palestra, perché magari in quel momento io ero in grado, facendo un mio bilancio, un piccolo riferimento alle mie entrate, potevo essere in quel momento in grado di fare questo, di avere questo credito, di avere questo debito. Quello della palestra peraltro è un mondo particolare, perché non è che uno si indebita per la palestra perché non ce la fa, è che se lo vuole pagare, se invece di tirar fuori 1.500 euro per un abbonamento, parlo delle cifre di Milano ovviamente, perché altrove si paga molto meno per una palestra media, peraltro per un abbonamento di un paio d'anni, non è che uno proprio con piacere li tira fuori tutto in una volta, certo. Se lo vuole pagare a rate, per forza la palestra ti fa sottoscrivere un finanziamento, per cui poi lì è anche un altro mondo. Certo che se insieme a quello, se vuoi andare in palestra, già paghi l'auto, certo. E magari anche il telefonino e magari chissà che cosa, monti qua, ecco che il gioco... Ecco, alla fine del mese tiri le somme e diventa quasi uno stipendio. Infatti. No, tra l'altro qual è la vostra indicazione, Monti, di percentuale corretta di indebitamento totale di cui dovrebbe sobbarcarsi una famiglia per non considerarsi appunto poi sovraindebitata? Ma diciamo che ognuno dovrebbe riuscire a fare un proprio bilancio, cosa che non si riesce, in genere le persone non fanno, e ragionare anche rispetto al possibile risparmio, quindi diciamo è anche molto individuale, però voglio dire un debito che va oltre il 30% diciamo del mio reddito già è al limite secondo noi. Esatto, anche tanto secondo più me. Se poi non sono in grado di avere dei patrimoni sia mobili che immobili che possono eventualmente intervenire, oppure sono un capitale basso, certo, un risparmio molto piccolo, insomma, quindi bisogna un po' stare attenti e fare delle scelte. Tra l'altro, purtroppo, lo diciamo spesso, manca proprio una cultura economica, cioè le persone non fanno mai progetti per il futuro, quindi magari mi trovo ad avere un reddito che mi consente di indebitarmi per tutta una serie di cose di cui ho bisogno, ma poi interviene magari ecco mio figlio, l'emergenza di un certo tipo, finisce il liceo, va all'università e devo affrontare una spesa che non ho previsto. Certo. Sul tema della pianificazione finanziaria a 360 gradi siamo abbastanza presenti con Nicoletta, facciamo tante volte delle trasmissioni anche con i consulenti finanziari ed oggettivamente... Tu hai scritto anche un libro che ricordo, Donne di Denari, che secondo me dovrebbe essere adottato nelle scuole, oltre che stare sul comodino di tutte le famiglie, perché ti fa prendere proprio consapevolezza con la gestione anche del denaro. Con molta modestia, grazie. Però è un aiuto. Roberto Anedda, allora ammettendo di aver bisogno di 10.000 euro perché devo comprare l'auto per rispondere ad un'altra finalità, vengo sulla vostra piattaforma, faccio una richiesta appunto di preventivo, voi chiedete anche all'interlocutore che vi fa la richiesta quanto è già indebitato e se questa nuova rata che vorrebbe aggiungere graverà in misura eccessiva sul proprio bilancio? Ecco. No, non direttamente, o meglio non in prima battuta, perché funzionando noi come motore di ricerca e comparazione delle diverse offerte, e il primo step è quello di permettere all'utente di verificare quali siano quanto costa, i costi, gli oneri del prestito e le offerte di diversi operatori, in modo che possa poi farsi lui dei conti, perché obiettivamente si tratta di informazioni abbastanza delicate che vengono poi valutate dal singolo istituto di credito prima di erogare il prestito. Quindi nel momento in cui io come utente utilizzo un servizio come il nostro, scelgo il prestito che mi sembra più conveniente, quindi meno costoso, nel momento in cui noi stessi inoltriamo la richiesta all'istituto, poi l'istituto entra in contatto col cliente e a quel punto chiede conto di quella che è la situazione debitoria per eventuali altre rate già in essere di mutui o altri prestiti, che spesso sono anche limitanti proprio per ottenere l'ulteriore finanziamento. Se si va oltre una determinata soglia, che è sempre intorno al 30-35% del reddito netto mensile, rispetto ad altri debiti già in corso, il finanziamento, così come anche per il mutuo, non viene erogato. In molti casi addirittura, se il reddito è molto contenuto, il nucleo familiare è molto numeroso, certo, si rimane anche al di sotto di questa percentuale, perché su un reddito limitato, con dei carichi di spesa familiare normali per la vita di tutti i giorni già importanti, anche un 20-25% di indebitamento potrebbe essere eccessivo. Esattamente. Allora, noi tra poco andiamo in pausa, poi faremo qualche preventivo un po' più accurato con Roberto Anedda, a seconda delle finalità e della cifra. Cercheremo di capire adesso i tassi praticati dal mercato, gli oneri per aprire appunto un prestito quali sono. Sentirei però subito la considerazione di Mara da Napoli, che saluto con particolare affetto, perché se non ricordo male, Mara, lei ci aveva già chiamato e raccontato la sua storia? Sì. Vero? Sì, sì, sì. Buongiorno, Debo. Mi spiace che non abbia risolto nulla, peraltro, però la raccontiamo di nuovo. La risegnaliamo. Ci dica, Mara, sì, in un minuto se ce la fa. Sì, velocissimo. Come ho detto l'altra volta, mi ha dato il prestito, c'è un ragazzo down di 27 anni che firma, vota, eccetera, eccetera. Però è totalmente indipendente, perché... Mara, lavora, no? No, non lavora, lavora perché per pigrizia, però ha una bella pensioncina e un bel accompagnamento, quindi potrebbe pagare un prestito. Perché cosa lo vuole Mara, suo figlio, il prestito? Si vuole fare una crociera. Ah, e tra l'altro era anche la stessa cosa dell'altra volta. Mara, ma guardi, io voglio sapere. Esatto. Noi dobbiamo impegnarci a mandare in crociera. Come si chiama questo ragazzo, Mara? Yuri. Guardi, adesso ce lo prendiamo a cuore. Dai. Anzi, guardi un po' che Roberto Anedda sta prendendo appunti. Adesso facciamo questo match in privato e vediamo. Certo. Signora, non so se Nicoletto o Deborah. Siamo in coppia. È uguale, è lo stesso. Un mostro a due teste. Cosa voleva dire Mara, veloce? veloce, un po' di tempo fa l'Inps gli ha mandato un assegno a nome suo intestato a lui per una piccola cifra, lui se l'è cambiato alla Deutsche Bank, ha firmato e tutto, però quando la Deutsche Bank gli abbiamo chiesto il prestito ce l'ha negato. Allora prendere, prendono e andare. Ecco, perfetto, ecco. Mara, mica tanto, ne parliamo dopo. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Cuore e denari. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita? Quella è partita. No, per me è restata. Ah, va presto. C'hai fretta? Tu stesso hai detto prima, si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Fai presto, è una parola. È una parola, tante volte è proprio una parola a rimborsare tutti i prestiti che sono stati sottoscritti magari in un momento in cui la condizione economica della famiglia era abbastanza tranquilla, poi ecco che track interviene l'emergenza, il bilancio salta e rimborsare tutte le rate diventa un problema. Perché affrontiamo questo tema questa mattina per la nostra parte di denari? Perché Banca d'Italia rileva che prestiti e finanziamenti sono tornati a crescere, tassi positivi a partire dal novembre dello scorso anno, dopo anni in cui invece le banche avevano abbassato le serrande, non erano più tanto generose nell'erogare prestiti e finanziamenti. Con noi quest'oggi Roberto Anetta, direttore marketing di Prestiti Online, e Donata Monti, presidente di Proseguo, l'associazione di professionisti che opera contro l'esclusione socio-economica dei soggetti sovraindebitati. Naturalmente tutte le vostre storie e le vostre domande all'800 24 00 24. Roberto Anetta, commentiamo il caso di Yuri da Napoli, nostro ragazzo che vuole andare in crociera. Mara, la sua mamma, ce l'ha raccontato anche in altre puntate. Soggetti un po' deboli a cui è difficile molto spesso appunto che è difficile accontentare. E poi gli chiedo dopo questo commento se ci vuole dire, secondo l'osservatorio dei prestiti online, quali sono i prestiti più richiesti, per che classi di importo. Magari facciamo anche un paio di simulazioni, così raccontiamo ai nostri ascoltatori oneri e tassi che vengono pagati in questo momento sul fronte prestito. E sul caso di Yuri e Mara, ovviamente non conoscendo il dettaglio, l'unica cosa sarebbe capire a quanto ammonti la... Se la è una discriminazione o se è un diniego reale che le finanziarie fanno. Soprattutto in questi casi, cioè figurarsi se ci può essere una limitazione per soggetti di un certo tipo, poi una volta che sono economicamente più o meno autonomi, anche non lavorativamente perché non lavora, ma insomma socialmente comunque attivi, non c'è sicuramente alcuna discriminazione di questo tipo. Le uniche limitazioni in genere sono legate al reddito, di qualunque tipo esso sia, che se magari troppo contenuto, adesso purtroppo non sappiamo a quanto ammonti la pensione di Yuri rispetto a quelle che erano le percentuali che dicevamo prima di indebitamento concesso, qualche istituto potrebbe fare il difficile. Detto questo, è effettivamente abbastanza di cattivo gusto prendere i soldi quando vengono accreditati sul conto, esatto, e poi rifiutarsi di venire incontro a determinate esigenze. Quindi, personalmente, ci può scrivere una mail più dettagliata sulla storia di Yuri? Vediamo se possiamo un po' farla circolare anche attraverso gli operatori che conosciamo e vediamo, magari chiediamo spiegazioni dirette sul perché a questa persona viene detto no. Poi magari è anche un importo improponibile, lui vuole fare la crociera, magari la finalità alla finanziaria non interessa. Detto questo, ce la scriva un po' più nel dettaglio la sua storia, così magari appunto la faccio circolare. Prestiti più diffusi in questo momento? Come dicevamo all'inizio, le voci più utilizzate da sempre sono quelle legate alla casa, soprattutto le spese per la ristrutturazione, ma anche quelle dell'arredamento, che soprattutto negli ultimi anni, grazie anche ai bonus fiscali, hanno avuto sicuramente un'accelerazione, e quelle legate poi ai veicoli, principalmente le auto, ma poi anche le moto. Complessivamente queste due grandi categorie occupano circa l'80% delle erogazioni di prestiti personali, proprio perché sono spese comunque importanti, che non capitano spesso, che a volte non sono pianificate adeguatamente o addirittura cadono inaspettate, che quindi pongono la famiglia di fronte a una spesa improvvisa anche di importi non indifferenti. E in questi casi, tra l'altro, essendo le finalità più utilizzate, quindi anche quelle meno rischiose per gli istituti, si ottengono i tassi migliori nell'ambito del credito al consumo. Parliamo in questo momento di tassi tra il 5,5% e il 6%, per queste due finalità, mentre chiaramente se ci si sposta su altre finalità più, come dire, ludiche, o come potrebbe essere le vacanze stesse, mm-hmm. o anche dei corsi di aggiornamento, comunque delle cose che storicamente gli istituti considerano come più rischiose, tra virgolette, per il loro storico di sofferenze successive, i tassi potrebbero essere più alti o anche gli importi concessi potrebbero essere più limitati. Okay. Ricordiamo che il ramo del credito al consumo viene erogato solamente a tassi fissi, non esiste il tasso variabile, sì, in questo ambito. Sì, ci sono stati alcuni tentativi parecchi anni fa da parte di alcuni operatori di provare a proporre anche i tassi variabili, che in questo momento, tra l'altro, con gli Euribor sotto zero potrebbero essere anche interessanti, vincenti. Ma poi alla fine non sono mai stati particolarmente seguiti neanche dal pubblico. Effettivamente il tasso fisso per un prodotto di questo tipo è più affidabile, certo, conveniente e tranquillo. Vorrei sentire Roberto da Roma e poi andare di nuovo a Donata Monti. Roberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Pronto? Sì, ci siamo. Ecco, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia storia così era un po' curiosa. Ho 63 anni, sono pensionato di un ente statale, correntista di una banca da parecchi anni, sempre in attivo, e da parte ho accantonato un piccolo risparmio di 20.000 euro. Ho voluto mettere l'impianto fotovoltaico a casa e fare approfittare delle detrazioni fiscali, quindi fare, certo, una piccola ristrutturazione, e ho chiesto alla banca se mi dava appunto una cessione, un prestito, dello stesso importo di quanto io avevo sul conto corrente, quindi 20.000 euro. Sì. Non mi hanno detto no, assolutamente no. E alla fine mi sono rivolto a Findomestic e ho fatto la cessione del quinto con un tag della pensione, naturalmente, Roberto. Sì, la cessione del quinto, del quinto pensione. Della pensione, Roberto. Grazie. Sì. Allora, vabbè, a parte il fatto che se la prima banca, quella dove è correntista, le dice di no, magari un'altra l'avrebbe accontentato. Quindi il primo suggerimento, Roberta Nedda, che diamo, non fermiamoci sempre al nostro sportello, perché magari potrebbe essere che ci faccia resistenza. Mi veniva da pensare anche che, avendo fatto l'impianto fotovoltaico alla casa, magari poteva anche avere accesso a qualche finanziamento specializzato nel settore green, perché anche quelli adesso ci sono, e magari informarsi un po' di più piuttosto che... Oh, infatti, però, da diversi anni erano disponibili anche finanziamenti di questo tipo. Poi magari non tutti gli istituti li offrono, ma a maggior ragione è meglio guardarsi in giro e sentire più banche o più operatori. Nel caso specifico, sul fatto che lui avesse un deposito in banca equivalente all'importo che richiedeva, questo purtroppo non è automatico del fatto che sia di una poter... garanzia, sì, per perché la poi banca. Il criterio della banca è sempre quello legato al reddito, più che al fatto di avere poi delle garanzie, diciamo, di capitale a disposizione. Ci si basa sul reddito. Se rispetto all'importo che io richiedo come prestito, la rata che ne deriverebbe eccessiva rispetto al mio reddito, in questo caso alla pensione, visto che Roberto è già pensionato, scatta il no da parte della banca, oppure la limitazione ad un importo più contenuto. E questo purtroppo è un cliché che si replica anche in altri istituti, quindi bisognerebbe conoscere poi i parametri, certo, dell'operazione per capire fino a che punto. Lui chiedeva: ho fatto bene? Beh, intanto ormai l'ha fatto, per cui non è che possiamo stabilire a posteriori se sia stata una buona scelta o meno. È forse un filino più oneroso degli altri questo tipo di prestito? Non ho colto, non perché ha citato il tag, ma non ho colto quanto fosse in quel 0,85 possibile. No, non è proprio così. No, non ho capito io allora. No, non si sentiva perché ci abbiamo parlato sopra. L'ha fatto con un grande player di mercato. Ha la tranquillità, esatto, che la finanziaria preleva direttamente dall'assegno pensionistico, quindi insomma è un'operazione come un'altra. Magari qualcosa più conveniente forse poteva trovarlo, un prestito personale. Diciamo che negli ultimi anni, anche sul mercato della cessione del quinto, stipendio, pensione che sia, fortunatamente l'ingresso di grandi player e anche la pulizia di tutto un sottobosco finanziario invece abbastanza non solo intricato, ma insomma, veramente pasticciato e non certo a favore del consumatore, ha favorito l'abbassamento dei tassi. Findomestic è sicuramente un operatore primario, e quindi questo gli ha permesso, gli dovrebbe aver permesso di accedere a un prestito senza oneri accessori particolarmente esagerati, perché prima la cessione del quinto una volta era un terno all'otto. Vero, ti dicevano, infatti, che il tasso era il 5, poi con tutti i vari caricamenti, altri costi, diventava il 15% ecco, o il 20%. Adesso è un po' più trasparente. Adesso è molto più mercato. Trasparente. Gli stessi istituti bancari operano direttamente, perché comunque tanti clienti sono comunque pensionati e quindi c'è una fetta importante di clientela che può accedere finanziamenti. Faremo una puntata solo su questo, sulla cessione del quinto, dello stipendio e della pensione. Concludo con un'ultima domanda a Donata Monti, che ringrazio per essere rimasta in attesa. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa fa Prosegu, l'associazione che presiede. Fate un'assistenza diretta alle persone in difficoltà, Donata Monti, o sull'attività formativa divulgativa. Su che progetti state lavorando in questo momento, se ce la fai in un minuto e mezzo? Poi sì, allora noi non diamo in genere assistenza diretta alle persone, quindi non siamo uno sportello, non siamo un'associazione di consumatori che già operano in questo campo. Noi abbiamo lavorato molto perché ci fosse la legge, l'Italia è stata ultima in Europa, e abbiamo lavorato sui contenuti della legge, ora stiamo seguendo la legge, ma soprattutto diciamo intendiamo lavorare dal punto di vista culturale, soprattutto con i professionisti, con coloro che incontrano anche a livello di volontariato, per esempio, quindi con organizzazioni no profit eccetera, che incontrano tutti i giorni situazioni del genere, ma non hanno possibilità o informazioni sufficienti per rispondere almeno ai primi nei primi momenti, i primi consigli. E quindi lavoriamo, diciamo, su questo. Il nostro progetto infatti sembra, diciamo, un passo indietro rispetto alla promozione della legge eccetera, però andrà proprio in questa direzione, tanto più che la legge prevede che uno dei soggetti che può lavorare per la composizione della crisi, per il piano del consumatore, quindi per risolvere tutta la questione del sovraindebitamento delle famiglie, tra i vari soggetti ci sono proprio i segretariati sociali, che non sono attualmente informati su questo né preparati. Quindi noi stiamo lavorando, diciamo quest'anno vorremmo operare proprio in questo mondo più social, se vuoi, che non è informato, mentre avvocati, i commercialisti, i professionisti sono stati coinvolti sin dal primo momento, quindi loro stanno preparando già questi organismi in base al regolamento, in base a quello che la legge. Esatto, lei tra l'altro sta citando più volte la legge, non dando per scontato che gli ascoltatori abbiano capito di cosa stiamo parlando, è la normativa appunto che disciplinerebbe proprio la composizione della crisi da sovraindebitamento. Va proprio, interviene finalmente con questo strumento di composizione delle parti. Allora può essere fatto dall'organismo previsto, dai vari organismi previsti, con tra creditori, quindi creare un accordo tra creditore e debitore, ma può comunque essere anche fatto, per esempio, per il consumatore. Lì abbiamo tentato in questa legge di dividere i professionisti, le piccole imprese che precedentemente non rientravano alla legge fallimentare, dal consumatore, che ha tutta un'altra diciamo specificità. Quindi per esempio per il consumatore esiste il piano del consumatore, che può essere fatto, diciamo, da questo organismo, presentato direttamente al giudice. Il giudice lo può omologare e i creditori accetteranno quello. C'è stato il famoso caso della signora di Busto Arsizio, che ha fatto tanto parlare di sé, che è stata forse la prima persona che ha potuto esperire, diciamo, questa via. Monti, purtroppo non ce la facciamo ad andare oltre, ma dedicheremo una puntata solo a questo. Mettiamo, come si dice, fieno in cascina continuamente con i nostri programmi. È importante sapere che si può utilizzare questo. Esattamente. Strumento. Grazie a Donata Monti, presidente di Prosegu. In bocca al lupo per il nuovo incarico. Saluti tanto Roberto Nicastri, gli dica che noi vorremmo ospitarlo molto volentieri a Cuore Denari. Si faccia portavoce di questa nostra esigenza. Grazie. Buona giornata. Grazie anche a Roberto Nedda, buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto, a presto. Allora. Bene, allora, dopo i debiti di denari andiamo a quelli di cuore, che possono erodere il nostro patrimonio salute. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno, che nella sua prima fase, essendo molto rapido, è anche, ahimè, molto leggero. Quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Ti vorrei notiziare il pop proprio. Allora, parliamo di sonno, dormire poche ore di per sé non è un problema, perché ciascuno dorme in base alle sue necessità, che possono essere influenzate dall'età, dalla stagione o anche dalle condizioni ambientali. Ma se una persona dorme per un numero di ore inferiore rispetto a quelle necessarie, allora con il tempo accumulerà un debito di sonno sempre più ingente e in grado di influenzare la sua attività quotidiana, il suo umore, la sua sicurezza e, in più in generale, diciamo, la qualità della sua vita. Allora oggi cerchiamo di capire se abbiamo un debito di sonno e a quanto ammonta. Ci aiuta il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano, che è tornato a trovarci. Prof, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, i disturbi del sonno aumentano e io mi riferisco sia a quelli legati all'insonnia sia all'opposto, all'eccessiva sonnolenza, e questo per via del minor numero di ore che oggi dedichiamo al sonno. Le ragioni le conosciamo tutte, sono tante, diverse: il logorio della vita moderna, i pensieri, gli impegni lavorativi, scolastici, familiari, l'uso serale, notturno degli strumenti, dei dispositivi elettronici e tecnologici, senza però contare, professore, che da quando nelle nostre case, le nostre città anche, sono illuminate a giorno, il nostro orologio biologico interno si è un po' sfasato. Per questo possiamo dire mal comune mezzo gaudio, siamo tutti un po' indebitati, è corretto? Sì, siamo tutti un po' indebitati, anche perché poi purtroppo la luce, la tanta luce, quindi quella sia emessa dai tablet, dalle televisioni, ecco, va a inibire il rilascio di melatonina, e quindi questo inevitabilmente ci porta ad avere uno stato di iperattività e quindi cerebrale, quindi di conseguenza la difficoltà a dormire. Ma come diceva giustamente lei prima, Nicoletta, il problema è che a volte ci si accorge di quelli che sono i problemi legati alla privazione di sonno, a volte non sono così evidenti queste possibili conseguenze. Allora, un ascoltatore su WhatsApp ci scrive: io ho un problema col sonno, ogni giorno mi devo svegliare per andare a lavorare, come posso risolvere? Allora, abbiamo lanciato ieri su Twitter un sondaggio e la domanda che abbiamo fatto è: qual è il problema con il vostro sonno? Vi anticipo alcuni risultati, ma poi vi invitiamo naturalmente a partecipare durante la trasmissione al nostro sondaggio. Ma direi, professore, che, e vorrei un rapido commento da lei, il 50% ha risposto che il problema sono i risvegli ripetuti, poi il russamento, il risveglio anticipato e il problema invece del non prendere a sonno, l'addormentamento. Naturalmente, se i nostri ascoltatori vogliono continuare a votare sulla nostra pagina Twitter, sono i benvenuti. Intanto, professor Ferini Strambi, facciamo un rapido commento. Certo, questa è una cosa interessante, perché quando pensiamo al disturbo del sonno, al problema del sonno, pensiamo alla difficoltà di addormentamento. In realtà il problema invece del mantenimento del sonno, cioè quello di avere appunto frequenti risvegli nel corso della notte, è un problema ancora più grande della difficoltà ad addormentarsi. E questa è una cosa importantissima, anche perché poi ci aiuta anche poi e ci fa capire se dobbiamo fare degli accertamenti e se dobbiamo appunto fare delle indagini specifiche per capire. Ed è quello che cercheremo di capire oggi con il professor Ferini Strambi. Cercheremo di capire se siamo in debito di sonno, ma intanto vi invitiamo a dare un voto alla qualità del vostro sonno, che possiamo verificare al mattino, no? Quando ci svegliamo, ma anche nel corso della giornata. Parleremo di sonnolenza, parleremo anche di stanchezza, no? Di mancanza di energia. Spesso facciamo difficoltà a distinguere queste due condizioni. Intanto vorrei dare subito la parola ai nostri ascoltatori, perché partiamo proprio dalle vostre storie, dei vostri problemi, per raccogliere delle informazioni. Nicola, buongiorno, da Reggio Calabria. Io ho 36 anni e da sempre ricordo di aver dovuto interrompere il sonno una o due volte sin da bambino per andare in bagno. Ultimamente però, con gli impegni lavorativi e con i cambiamenti della vita e dell'età, questa situazione è diventata un problema, tanto che nei giorni di forte stress o giorno precedente o giorno successivo questa interruzione può essere anche di 5, 6, 7 volte e naturalmente compromette gravemente il mio sonno, tanto certo. Che certe volte proprio non dormo per niente. Come contesto vorrei aggiungere che svolgo attività fisica e non ho particolari eccessi nell'alimentazione, ecco, se questi indizi possono essere utili. Bravo Nicola, ha dato tutte le indicazioni. Quante bravo. Quante soddisfazioni ci danno questi ascoltatori. Non mamma. A caso si chiama Nicola, vedi che. Allora, prof, che cosa ci racconta la storia di Nicola? Siccome il nostro Nicola è un soggetto giovane che fa attività sportiva, io penso che non sia sicuramente sovrappeso e che non abbia problemi respiratori, che non abbia problemi di russamento e di apnee, perché non dimentichiamo che molto spesso la nitturia, cioè il fatto di doversi svegliare di notte per andare a far pipì, è legato a un problema respiratorio notturno, perché viene liberato un ormone che si chiama ormone natriuretico che ci costringe ad andare a urinare. Ecco, questo secondo me però non penso che sia il caso dell'ascoltatore, dove invece va ricercato il problema. Verosimilmente va ricercato nel fatto che La tensione che caratterizza il sonno notturno di Nicola fa sì che il suo sistema simpatico sia molto attivato, e quindi questo lo porti magari molto spesso a dover andare in bagno a urinare. Poi lì è difficile capire se è il risveglio, e visto che tanto che si è risvegliato va in bagno a urinare, e risveglia a causare diciamo così questo fatto di dover fare pipì, oppure viceversa è il soggetto si risveglia perché deve andare in bagno. Ma sicuramente in questo caso si può pensare che ci sia questa iperattivazione del sistema appunto simpatico, con una, diciamo così, l'incapacità ad approfondire il sonno in maniera giusta, in maniera corretta. Quindi in questo caso sicuramente magari si potrebbe pensare anche di ricorrere a una blandissima terapia farmacologica, proprio per cercare di diminuire questa tensione notturna. 800 24 00 24, abbiamo Enrico da Padova, prima di andare a sentire che cosa ci dicono i mercati. Mamma mia, oggi non vorrei altro farmi, che guarda. Ci tolgono il sonno. Un po' sì, un po' sì. Enrico, buongiorno, benvenuto. Sì, salve Deborah, Nicoletta, saluto anche il professore e tutti i radioascoltatori. Io chiamo perché part time svolgo l'attività di vigilante nel settore antincendio, e quindi il lavoro si svolge prevalentemente di notte, no? Sì. E quindi non c'è un problema, una patologia, c'è proprio una necessità. E mi chiedevo quindi com'è il miglior modo per affrontare i tempi di recupero, e come abbiamo saputo per esempio chi viaggia molto ha il problema del jet lag, se uno viaggia poco o se uno viaggia in continuazione deve cercare di adattare il proprio bioritmo con delle certo. strategie. E quindi se seconda che sia un lavoro part time, quindi, o se sia addirittura full time come qualche collega, se uno, questo può dare alla lunga, a quanto pare, da quello che ho letto anche su qualche guida del Ministero della Sanità, mi sembra. Dei problemi di anche di salute, diciamo, i turnisti. Sì, patologia, certo. A quanto pare il cuore, ovviamente il riposo. Ma come si fa a recuperare? Lo stanno chiedendo in tanti, Enrico. Sono tante le persone turniste che quindi svolgono un lavoro di notte e ci chiedono, ma alla fine come possiamo in qualche modo limitare i danni che questa vita, no? A cui questa vita ci espone, e soprattutto è possibile recuperare il debito di sonno? 800 24 00 24, ne parliamo col professor Ferini Strambi, ma oggi cerchiamo anche di prendere consapevolezza della qualità del nostro sonno. Forse siamo in debito di sonno e non ce ne rendiamo conto, e quindi restate con noi, continuate a scriverci e a partecipare al nostro sondaggio. Cuore e denari. La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa. Ci si indebita per acquistare la casa, ma ci si indebita anche con Morfeo. 50 anni fa solo il 3% della popolazione adulta dormiva meno di 6 ore per notte. Attualmente almeno il 30% di tutti gli impiegati, il 44% dei lavoratori a turno notturni dormono altrettanto poco. Dormono meno anche i bambini, in media circa 1-2 ore rispetto a un secolo fa. E attenzione, nei piccoli la perdita del sonno si manifesta non con la sonnolenza come negli adulti, ma con l'iperattività e la difficoltà a mantenere l'attenzione. Ne stiamo parlando col professor Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Ne stiamo parlando con tutti voi che ci state raggiungendo attraverso il nostro numero verde 800 24 00 24. Vi ricordo il nostro sondaggio su internet, e vi invitiamo a dare un voto al vostro sonno e a raccontarci che tipo di dormitori siete, se siete cambiati nel tempo, se siete soddisfatti, assegnati, preoccupati, disperati, se avete chiesto aiuto, se ci state pensando. Professor Ferini Strambi, apriamo il capitolo lavoratori turnisti. Sì, questo ecco. è un capitolo importante, perché esiste, ne ho già parlato anche in passato, ma il problema rimane, esiste la famosa regola del 33%, perché chi fa i turni di notte, un terzo riesce diciamo così, ad adattarsi bene a questo turno notturno, e in questo caso sono soprattutto i soggetti che geneticamente tendono ad essere un po' gufi, cioè quindi quelli certo. che tendono ad andare a letto molto tardi e poi svegliarsi chiaramente tardi al mattino. Un terzo di persone invece proprio non ce la fa assolutamente, cioè quindi un terzo di persone non riesce ad adattarsi, proprio non ce la fa. Mentre poi c'è un terzo che magari deve adattarsi anche per motivi diciamo pratici, e poi questo però comporta chiaramente delle conseguenze. Oggi ci sono tantissimi lavori che hanno dimostrato come chi fa lavoro notturno purtroppo ha degli aumentati rischi a livello sia cardiocircolatorio, e ci sono anche delle segnalazioni purtroppo ahimè anche a livello diciamo di malattie neoplastiche. Sì. Potremmo discutere qui a lungo su quelle che sono le possibili cause. Sembra essere implicata anche in parte anche la melatonina, che ha comunque un'azione diciamo così protettiva per lo sviluppo di alcune patologie neoplastiche, ma al di là di questo sicuramente bisogna cercare di fare qualcosa. La pianificazione dei turni ad esempio è una cosa molto importante. Devono essere ad esempio preferite le rotazioni in senso orario piuttosto che antiorario, mi spiego meglio, cioè fare ad esempio una rotazione mattino, pomeriggio, notte, e non fare ad esempio rotazioni invece che mettono dentro magari mattina e poi la notte e poi il pomeriggio, cioè quindi avere la capacità di pianificare questa rotazione in maniera appunto oraria. Poi l'altro aspetto importante bisognerebbe evitare che i turni della mattina ad esempio inizino molto molto presto, perché questo potrebbe andare bene per i soggetti che tendono ad essere ad esempio dell'allodole, ma non va bene per i soggetti normali o per i soggetti gufi. Altra cosa importante, evitare ad esempio i turni notturni molto lunghi, anche di 12 ore, che questo non va assolutamente bene perché appunto porterebbe a un accumulo eccessivo di fatica. L'altra cosa invece molto pratica che possiamo fare quando siamo costretti a fare dei turni notturni, quando torniamo a casa evitiamo l'esposizione alla luce del sole quando smettiamo di lavorare nel viaggio verso casa, ad esempio indossiamo degli occhiali scuri da sole. Perché? Perché noi ci stiamo avviando verso casa, dove dovremo cominciare un sonno cosiddetto tra virgolette di recupero, e quindi questo fatto chiaramente ci deve essere deve essere favorito dalla inibizione della luce sulla nostra melatonina, perché se noi ci esponiamo invece subito alla luce tornando a casa, questo va a inibire la melatonina e quindi faremo più fatica poi ad addormentarci una volta che arriviamo. Bene, indicazioni aggiuntive, professor Ferini Strambi, controlli che il lavoratore che fa turni di notte deve fare, segnali che non deve trascurare, penso ad esempio alla misurazione della pressione importante. La misurazione della pressione è importante in questi soggetti, anche perché noi sappiamo che quando dormiamo normalmente di notte andiamo a inibire il cortisolo, che è appunto l'ormone che ci fa alzare la pressione. Quando però purtroppo ad esempio facciamo un sonno tra virgolette cosiddetto di recupero, questa inibizione del cortisolo non avviene in maniera così efficace come invece avviene durante la notte. Quindi ecco perché noi continuiamo sempre a parlare del vivere 24 ore su 24, no, è importante, come ricordava lei Nicoletta all'inizio, l'importanza del sonno, ma è importante anche che il sonno si collochi nella maniera giusta, nella maniera corretta, cioè quindi sicuramente per la maggior parte delle persone nell'orario notturno, e poi chiaramente per l'allodole e per i gufi ci può essere questo spostamento del sonno, ma perché lì si va praticamente ad assecondare quella che è una predisposizione genetica dell'individuo. Professor Ferini Strambi, le voglio leggere un messaggio che ci manda Chiara da Bergamo e dice: le mamme che ogni 3 ore allattano i piccoli accumulano debito di sonno, hanno qualche superpotere ormonale, al mattino poi si lavora, è vero? Sì, includiamo anche le mamme. Gidio, certo. Esatto, che è un papà, perché dice: il mio problema è una bambina magica che si addormenta in camera e poi si materializza tra mamma e papà. Possiamo dire, professor Ferini Strambi, che poi i figli crescono, per fortuna? Speriamo, che a un certo punto non si infilino più nel letto. I figli crescono, poi c'è una sorta di autocompensazione nelle mamme che si svegliano, perché comunque tanto una mamma che dorme diciamo accanto a un bambino piccolo di per sé tende ad avere un sonno non molto profondo, no? Proprio perché è impostato in maniera tale da poter rispondere alle eventuali esigenze del piccolo. Ma poi sa qual è il problema, Nicoletta? Il problema è che c'è comunque questa compensazione importante, e una compensazione che viene anche poi, deve essere legata anche poi a quella che è la gratificazione e la gioia della mamma di stare accanto al proprio piccolo. Quindi insomma ecco, non va tutto brutalmente riferito a quelli che sono gli aspetti neurofisiologici. Poi ci sono gli aspetti psicologici che sono altrettanto importanti. Insomma, qua ci sarebbe altro che argomenti per puntate intere. Professore, che la qualità del nostro sonno non sia adeguata, oppure il numero delle ore che noi riposiamo non sia sufficiente, no? Ciascuno di noi non può capirlo, ma tendiamo un po' ad accontentarci e quindi notte dopo notte, giorno dopo giorno andiamo in accumulo. Sicuramente la sonnolenza diurna è un indicatore prezioso della qualità del nostro sonno, ma non sempre noi siamo capaci a distinguere la sonnolenza e la stanchezza. Ci aiuta a capire quali sono i segnali che ci possono un po' essere la cartina tornasole della qualità del nostro sonno e dell'eventuale debito? Certo, allora innanzitutto non è facile fare questa distinzione tra... E per questo ho invitato lei, sa? Perché io quando devo spiegarlo ai pazienti, quando faccio la mia intervista, quando faccio la raccolta delle informazioni anamnestiche del paziente, io adotto una specie di piccola strategia. Quando devo spiegare che cos'è la stanchezza, dico al paziente, ecco, lei immagini di fare una lunga camminata oppure di lavorare, di mettere a posto la cantina, il solaio e quindi di lavorare 4-5 ore intensamente, dopodiché uno proprio avverte questa sensazione proprio di spossatezza fisica. Ecco, quella è la stanchezza. La sonnolenza invece è qualcosa che è più legata al fatto che, ecco, io sono lì che sono davanti al televisore e la cosa è un pochino noiosa e piano piano mi sento proprio che si stanno chiudendo gli occhi. Certo. Oppure lo stesso discorso di quando magari leggo, sono alla decima pagina di un libro molto noioso e quindi ecco, avverto proprio questa sorta di torpore. E quindi sono sicuramente due cose diciamo distinte, ma sa qual è il problema però, Nicoletta? È che spesso però chi ha un problema di debito di sonno tende ad avere un po' entrambi questi problemi. Cioè quindi sia la stanchezza che la sonnolenza, quindi diventano poi un problema unico che viene difficilmente insomma ecco differenziato proprio perché si presentano contemporaneamente entrambi. Però volevo ricordare una cosa fondamentale, che è questa: quando noi perdiamo una notte di sonno, dormiamo di meno, chiaramente il giorno dopo abbiamo delle conseguenze, ma dobbiamo tener conto di una cosa, che il debito di sonno, notte per notte, notte dopo notte, tende ad accumularsi in maniera molto molto importante, in maniera diciamo così quasi esponenziale. Cioè quindi se io riesco tutto sommato a reagire abbastanza bene a una notte di sonno diciamo così molto molto corto o di cattiva qualità, se queste notti diventano 2, 3, 4, 5, la conseguenza diurna è molto molto molto grande. Ma c'è anche un altro tipo di problema, che spesso questi soggetti che sono in privazione di sonno non se ne rendono conto, e quindi noi abbiamo degli studi che ci indicano chiaramente la discrepanza tra quello che è il dato reale, oggettivo, misurato ad esempio con dei test, e quello che ti riferisce il soggetto. Quindi il soggetto spesso ti dice no, io non ho sonnolenza, non ho problemi, e poi invece quando gli vai a fare un test specifico vedi che è un disastro questo soggetto per quanto riguarda ad esempio non so la capacità di reagire frenando di fronte a una nella guida simulata, di fronte a un pericolo che compare improvvisamente di fronte a sé nella strada, no? Cioè quindi il soggetto privato di sonno, ed è questa la cosa più grave, può avere dei seri problemi di sonnolenza e di riduzione della vigilanza senza neanche però accorgersi. Parleremo naturalmente di sonnolenza diurna alla guida, è un problema prevalentemente originato dalla OSAS, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Ci sono delle novità proprio nell'anno in corso per le persone che soffrono, potrebbero soffrire di questo problema. Ci sono delle direttive europee che tutelano e regolamentano il rinnovo della patente. Quindi se avete questo problema, se pensate di averlo, se vi è stato diagnosticato, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico per raccogliere tutte le informazioni dal professor Ferini Strambi. Abbiamo anche Marco da Roma, Valeria da Verona in attesa e spazio alle vostre telefonate. Cuore e denari. Vogliamo occuparci di un disturbo che mette a serio rischio la sicurezza stradale. Parliamo delle apnee ostruttive del sonno. Le statistiche ci dicono che chi soffre di apnee ostruttive ha un rischio di incidente, pensate, superiore da 2 a 7 volte rispetto alle persone sane. Ci sono delle iniziative, delle campagne. Mettiamo il link di una campagna dell'ACI, sono Lenze al Volante, un killer silenzioso, dove troverete anche delle indicazioni preziose per riconoscere i sintomi di questo problema. Intanto ne stiamo parlando con il professor Ferini Strambi, perché secondo le nuove direttive, automobilisti a cui è già stata diagnosticata questa patologia in forma moderata o grave potrebbero vedersi costretti a nuovi accertamenti medici prima del rinnovo del rilascio della patente, e poi dovranno essere naturalmente soggetti a verifiche periodiche con intervalli superiori a 3 anni. Professore, mi sembra che i centri di medicina saranno presi del sonno saranno presi d'assalto. Ci vuole spiegare che cosa succede di nuovo? Beh, allora, d'assalto sicuramente ci sarà un incremento di quelli che sono i soggetti da valutare. D'assalto no, perché poi tutto sommato il problema è che queste nuove direttive, che giustamente sottolineano l'importanza della sindrome della apnea ostruttiva come possibile causa di sonnolenza diurna e quindi di incidente stradale, questa è una cosa sicuramente importante, ma il problema è soprattutto, diciamo così, legato ai soggetti che soffrono di una sindrome dell'apnea ostruttiva di una certa gravità. Cioè, quindi è previsto che comunque il soggetto non debba rivolgersi subito e direttamente, diciamo così, al centro di medicina del sonno, perché la valutazione dell'entità della sonnolenza diurna viene già fatta, diciamo così, nella commissione medica che rinnova la patente, certo. Esattamente. Poi chiaramente la commissione deciderà, nel caso in cui ci sia questo problema di sonnolenza importante, nel caso in cui ci sia un sospetto di sindrome della apnea ostruttive, invierà il paziente, il soggetto, a un centro, diciamo, specializzato per fare gli accertamenti, ma per fare anche poi la terapia adeguata. Quindi vorrei dire, questa nuova legislazione che pone l'importanza evidenzia l'importanza della sindrome della ostruttiva non vuole essere, tra virgolette, soltanto punitiva. No, certo, è tutelante. Un invito assolutamente a questi soggetti, soprattutto quelli che soffrono di una sindrome grave con sonnolenza, un invito a curarsi, perché non è soltanto il rischio, diciamo, per gli altri conducenti, ma il rischio per lo stesso conducente, e non è soltanto un rischio, in questo caso solo di sonnolenza di una, ma è anche un rischio a carico di tante altre funzioni del nostro organismo. Il problema sicuramente ci vorrà, anche se è partita e già operativa questa nuova disposizione, ci vorrà chiaramente qualche tempo per vedere quali saranno i riflessi, diciamo, chiari, reali e netti di questa nuova normativa. È importante però questo, è importante, sa perché è importante, Nicoletta? Io proprio ieri stavo leggendo un articolo sugli ultimi dati sugli incidenti stradali e sulla mortalità degli incidenti stradali in Italia nel corso del precedente anno. E una cosa che purtroppo mi ha, diciamo, amareggiato è stato l'aumento degli incidenti notturni e l'aumento anche della mortalità, certo, degli incidenti notturni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi adesso abbiamo dato spazio a questa patologia che deve essere, diciamo, individuata e curata. Ma ci sono tante altre situazioni, come ad esempio soggetti che guidano di notte, magari pur potendone fare a meno, e che non tengono conto che di notte, non dimentichiamoci che questo è strettamente legato a un aspetto neurofisiologico, di notte il nostro livello di vigilanza, al di là delle apnee, scende. Si abbassa. Scende, ma perché? Perché noi sappiamo che di notte scende anche la nostra temperatura corporea, e soprattutto verso le 4 del mattino c'è il picco minimo di temperatura corporea e c'è il picco minimo del livello di vigilanza. E quindi, a meno che uno non debba proprio farne assolutamente a meno, è bene che alle 4 del mattino il soggetto stia a letto a dormire e che non sia appunto in giro in macchina con un alto rischio di incidente. 800 24 00 24, continuiamo a parlare della qualità del nostro sonno, cerchiamo di prendere consapevolezza anche di quella stanchezza, di quella sonnolenza che avvertiamo durante la giornata, di quel bisogno di schiacciare un pisolino, anche se il momento, no, non è quello adatto, è logico, dopo pranzo un po' di abbiocchino viene, ma ci sono altre situazioni che vanno assolutamente monitorate. Andiamo a Marco che ci chiama da Roma, abbiamo parlato di guida, eccolo qui il nostro amico Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno al professore. Lei guida tanto, Marco? Io guido sempre. Tantissimo, perché sono autotrasportatore. Ecco. E niente, io mi trovo delle volte, non sempre, però mi trovo delle volte, come un mese fa mi ricordo, che ho dovuto guidare tutta la notte, il giorno ho scaricato, sono dovuto andare a ricaricare, ho ricaricato, ho riguidato tutta la notte. E sono arrivato alle 4 di pomeriggio a casa, che mi sono messo a dormire alle 5, mi sono svegliato a mezzogiorno e mezza del giorno dopo. Però volevo chiedere al professore, io 3 anni fa avevo avuto una rapina e praticamente mi ha spruzzato mentre dormivo delle cose per farmi addormentare, per non farmi svegliare. Sì. E io mi sono svegliato all'ospedale di Novara con 2 fleb e un catetere, e il dottore mi ha detto: non so come fai a essere vivo perché ti ha spruzzato una cosa, mi ha detto anche cos'era. Comunque mi ha portato all'ospedale con 280-180 di pressione. Quindi un'ipertensione veramente alle stelle. Marco, venga la domanda, per favore. Ecco, sono andato io all'ospedale dove abito, al centro di ipertensione, mi ha fatto tutte le visite, tutto quanto, poi mi hanno dato delle pasticche che ancora prendo. E quindi... da quando prendo queste pasticche, 2-3 volte la notte mi sveglio per andare a urinare. Però io mi rimetto a letto e mi addormento immediatamente, non ho problemi allora, di queste cose. Grazie Marco. Marco ci ha raccontato la sua storia e ci offre tanti spunti di riflessione. Intanto ricordiamo che i pericoli connessi alla sonnolenza aumentano con l'aumentare delle ore trascorse al volante senza pausa, quindi questa sembra un'ovvietà, ma è bene ricordarlo. Professor Ferini Strambi, ipertensione nelle persone che è legata anche al sonno, lo abbiamo visto. Ipertensione che è legata anche al fatto di non dormire, perché se uno non dorme di notte, quando dovrebbe esserci questa azione benefica dell'inibizione del cortisolo, chiaramente la pressione rimane alta. Ecco, citavo prima l'esempio di chi poi si alza e deve andare a urinare, a far pipì, e se lo fa tante volte magari questo è legato appunto al sistema simpatico che funziona tanto. Però non dimentichiamoci che ad esempio i soggetti che russano, che fanno apnea e che di notte si svegliano per andare a urinare proprio perché c'è quella liberazione di quell'ormone, quando poi si rimettono a letto riprendono a dormire diciamo così immediatamente, cioè quindi non sempre diciamo il risveglio notturno per il fatto che uno deve andare in bagno a far pipì necessariamente comporta dei risvegli prolungati, e quindi questi aspetti, poi l'abbiamo citato prima, dicevo l'importanza ad esempio della continuità del sonno. Ho 20 secondi per spiegare questo concetto? Sì, certo. 20 secondi. Certo. 20, è importante il mantenimento del sonno, e quando ci sono tanti risvegli notturni, questa è la situazione in cui il sonno va indagato. Perché? Perché quando c'è un problema ad esempio di difficoltà di addormentamento, spesso dietro c'è un problema di ansia, di incapacità a staccare con il cervello, e quindi non ci sono particolari problemi diagnostici. Quando ci si risveglia presto al mattino, il soggetto magari potrebbe semplicemente essere un pochino depresso, oppure arrivare a una fase di depressione, oppure essere un soggetto all'odola, cioè quindi soggetto che va molto presto a dormire la sera e quindi necessariamente si sveglia presto al mattino. Ma se ci svegliamo tante volte di notte, e dobbiamo capire perché, e a volte è necessario fare un esame, a meno che uno non abiti sopra a un supermercato dove arrivano camion che scaricano merce tutte le notti, e quindi ovviamente lì la causa e il motivo è ben chiaro. Certo, un esame, quindi ci si rivolge ai centri di medicina del sonno, facciamo un po' un ABC. Centro di medicina, innanzitutto parlare col proprio medico, poi eventualmente il medico potrà decidere di inviare il soggetto a un centro di medicina del sonno. C'è il sito dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno, che è la www.sonnomed.it, e in questo sito ci sono tutti i centri riconosciuti in Italia dall'Associazione Italiana Medicina del Sonno, dove chiaramente si possono fare tutte le indagini necessarie per capire il problema. Bene, professore, dovrà tornare presto perché vogliamo analizzare i disturbi del sonno ad uno per dare delle indicazioni. Intanto Cuore Denari a vostra disposizione, vi ricordiamo la mail. Il tema ha appassionato molti i nostri ascoltatori, ma non solo loro. Infatti sonno e insonnia sono anche temi che hanno saputo ispirare il cinema, e allora sul nostro sito abbiamo pensato di mettere un breve elenco di film sul tema. Chissà che non possano aiutarvi a fare almeno pace con Morfeo. Professor Ferini Strambi, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Ma il riposino dopo pranzo quanto deve durare? Chiede Leo da Firenze, mi raccomando. Poco, 20 minuti, la pennichella, io domani me la faccio. Ottimo, grazie a tutti. Invece noi ci risentiamo lunedì. Buon weekend. Anche a te.